Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar alle 8.20, siamo qui. 8.20 fino alle 9.30, ancora per qualche giorno fino alle 9.30. Siamo in diretta in questo 20 settembre. Il 20 settembre, lo sai, no? È la presa di Roma, il compimento dell'Unità d'Italia. Nel 1870, e pensa che nel 1905 il primo film proiettato in pubblico in Italia era sulla presa di Roma nel 1870, il che è una perfetta parabola del fatto che da noi le cose avvengono all'inizio sul serio e poi diventano subito un film comico, cioè in capo a qualche decennio, perché è davvero così. Nel 1905 siamo partiti bene, però siamo partiti bene, abbiamo capito subito che era meglio farci un film piuttosto che prenderlo sul serio. E pensa che sempre il 20 settembre del 2010 Roma diventava, altra barzelletta, Roma capitale, assumeva la veste giuridica amministrativa. Che barzelletta dici? Ce l'hai con Roma capitale? Non ce l'ho con Roma capitale, ce l'ho col fatto che viviamo di prosopopea, perché poi nella sostanza i romani vivono la realtà, che è un po' diversa. Quando tu dici cittadino di Roma capitale, no dai, di Roma. Io so, però la definizione, nonché Roma capitale, è stato il prodromo di quello che poi dovrebbe entrare nella Costituzione, anche cioè del nuovo ordinamento delle città metropolitane, anch'esse prive di potere in realtà, ma noi viviamo inventandoci delle formule alle quali poi stentiamo a dare potere, strumenti e responsabilità, per così dire. Tra i santi di oggi, ecco, oggi è un giorno classico in cui si ricordano caterve di santi, perché si ricordano i 10.000 martiri coreani, perché pensate che tra la fine del 1700 e 1882, quando ci fu libertà di culto in Corea sterminarono 10.000 cristiani, e qui Giovanni Paolo II ha dedicato questa giornata ai martiri della Corea. Tra gli altri auguri a chi compie gli anni, Asia Argento e Loredana Bertè. E anche Sofia, che compie 3 anni, la figlia di un ascoltatore. Perché adesso a questo punto siamo partiti, ovviamente, giusto, in questo loop. Sofia. Le comunità sono fatte di persone, di donne e uomini che ti vogliono bene e che ci chiedono di ricordare anche coloro a cui vogliono bene loro. Mi sembra giusto. Allora, caro Oscar, noi oggi parleremo di attualità internazionale, perché in America, e ne parleremo tra poco, hanno trovato e hanno fermato questo cittadino americano-afghano, che sarebbe il responsabile, speriamo l'unico, forse l'unico, non si sa se non l'unico, si sa, di questi ordigni artigianali, uno esploso, altri inesplosi. Comunque, sottolineiamo che lì, a quanto pare, nel giro di poche ore, riescono a beccare i responsabili di questi gesti, lupi solitari o meno. Confronto l'inefficienza franco-belga o europea, non so come dire, più in generale, mi sembra molto più marcata. Dovremo anche capire che cosa e come questo impatterà sulla campagna elettorale, perché oggi Marco Valsagna sul Sole dice che questo potrebbe davvero favorire Trump, se si favorisce chi soffia sul fuoco di questi tipi di rischi, di questi tipi di emergenze. Del resto già erano 2 settimane che chi raccontava sui giornali italiani internazionali come una vicenda già chiusa, Hillary stravince, eccetera eccetera. In realtà poi non è così, forse i media dovrebbero avere un atteggiamento meno gravato da pregiudizi, non perché mi piace Trump, dico che però bisogna descrivere i fenomeni elettorali per quello che sono, e il fenomeno elettorale Trump è una classica però versione all'americana di quello che noi vediamo anche tante volte in Europa, ci può piacere o meno, ma è così. L'America, insomma, di nuovo è sotto attacco. Certo che però noi italiani ci ritroviamo in prima pagina, perché succede in Libia che due lavoratori, uno di 68 anni, Danilo Calonego, e uno di 58, Bruno Cacace, sono stati rapiti insieme a una terza persona, pare. Questo a Ghat, che è nel sud della Libia, noi siamo abituati a vedere la Libia, le coste, da dove parte, invece confine è il sud, con l'Algeria. Al confine con l'Algeria. E noi, chi conosce la realtà degli impianti energetici italiani, dove si condensano gli interessi nazionali, sa che è esattamente sulla parte del confine occidentale, quindi Algeria e Tunisia, dalla parte sud dove è Gat, questo aeroporto, fino alla parte nord dove c'è il terminale, poi sul mare dell'Eni. Non è un caso, no? Noi abbiamo gli interessi che si concentrano da quella parte, la Francia ce l'ha dall'altra parte con Total F verso l'Egitto. Ma la domanda è: perché quelli stavano lì senza nessuna norma di sicurezza? E infatti la questione è un po' questa. Tra l'altro, questa serie di domande, non solo questa, se le poste Domenico Quirico oggi sulla Stampa, per questo lo abbiamo, come dire, convocato, chiamato al volo, e lo ringraziamo. Domenico Quirico, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Perché questa e altre domande, ma questa su tutte, cioè che ci facevano lì, come se fosse un appalto in Calabria, come se fosse un appalto in un qualsiasi parte italiana, questi due lavoratori, perché porsi questa domanda, Quirico? Perché non si può andare in Libia? Perché la Libia, detto in una parola, è il caos assoluto. Cioè, ci sono centinaia di formazioni armate di varia natura, di varia sigla, di varie origini, legate però sostanzialmente ad attività criminali o ad attività legate ad interessi petrolio, gasdotti, cioè fare denaro. Allora è un mosaico talmente complicato, indecifrabile, addirittura per gli stessi libici, credo, per certi aspetti. Non capisco bene perché attività economiche italiane continuino a operare in questa zona, e poi ci ritroviamo a dover raccontare la solita tristissima odissea dei sequestri. Allora mi domando, il governo italiano sa quanti sono gli italiani che lavorano in Libia, dove lavorano, in che condizioni? Probabilmente sì. Voglio sperare di sì. Sento sempre che la intelligence italiana è straordinariamente ben addentro alle vicende della Libia, nessuno le conosce come noi, gli americani che chiedono consigli a destra e a manca. Però poi aspetti Quirico, posso sottolineare, o magari mi sbaglio, mi corregga, che c'è un velo di ironia in quello che sta dicendo, chiuso l'inciso? Leggetela come vi pare. Tutte le volte che sento emergono queste vicende, io sono reduce da aver assistito in prima persona alla vicenda recentissima di altri quattro italiani sequestrati in un'altra zona, Sabrata Nord, due purtroppo sono morti, sono stati ammazzati, due per fortuna sono tornati indietro. Allora mi domando, e poi conosco la Libia perché ci sono stato un sacco di volte, e vedo che c'è una sorta di spaventoso abisso tra quella che è la realtà del paese, che è una guerra permanente, continua, confusa e feroce, e il fatto che ci siano delle persone che al mattino vanno a lavorare come vanno a lavorare a Catanzaro o a Cusano Milanino. Cioè c'è qualcosa che non quadra. Cioè non c'è rapporto tra le due cose. Uno prende la macchina e va a lavorare. Vabbè, in molte parti del mondo è la cosa più normale, giusta e bella che ci sia. In Libia non capisco come sia possibile. Tra l'altro, l'altra domanda che si pone, al di là del che cosa facevano lì, è, per entrare proprio nella questione libica che tante volte abbiamo affrontato, ma chi sono, non dico gli amici e nemici, ma di chi ci dobbiamo fidare in Libia? Cioè chi è che sono coloro che reputiamo più vicini a noi nel senso di italiani, di comunità occidentale? Anche qui non si capisce, no? Guardi, la definizione di una politica estera dai tempi di Tucidide, della guerra del Peloponneso, il famoso discorso degli ateniesi a quelli dell'isola di Delo, è molto semplice. In una realtà bisogna individuare non i buoni e i cattivi, perché sennò si dice che sono un pirla che ottocentesco che pensa in termini, diciamo, in termini della realpolitik, quelli che ci sono ostili, che possono darci dei danni, e quelli con cui possiamo, come dire, stabilire alleanze, sempre naturalmente, come dire, non eterne, ma questa è la politica internazionale. Allora, la domanda però che precede questa, e non so se è stata fatta questa, si sono fatti la domanda coloro che si devono porre, che non sono io, ma coloro che guidano la politica estera di questo paese, dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, è chi stabilisce chi sono. Perché io come cittadino lo voglio sapere. Cioè la scelta dei buoni e dei cattivi, degli utili e degli inutili, dei pericolosi e dei, invece di quelli innocui, chi la fa? possono esserci molte risposte. Siamo in una struttura di Unione Europea, boh, la deciderà la Mogherini, la Commissione Europea, il concerto delle nazioni dei 27, o la fa il governo italiano, benissimo, o la fa il Parlamento italiano, benissimo, o lo fa l'ENI, non so se è benissimo, ma forse bisogna dirlo. Allora, il petrolio è una cosa fondamentale, assicurare i rifornimenti e tutte queste robe qua, però bisogna essere molto chiari. Allora, siamo lì e scegliamo sulla base della necessità nostra di avere sempre rifornimenti energetici. Va bene, ma bisogna dirlo. Sì, sì. Bisogna dirlo. Tra l'altro, Oscar, molti ascoltatori ci dicono, non vi chiedete anche perché, e questa è una cosa sulla quale rifletteremo sperando ovviamente intanto di salvarli, non erano come dire di primo pelo, cioè 58 anni, 68 anni, io me lo chiedo cosa spinga un signore di 68 anni a dover andare in Libia. Ma nelle testimonianze raccolte da chi ha scritto i pezzi si trovano infatti un racconto di chi ha passato pezzi e pezzi lunghi di vita in quel paese e non riesce a pensare di se stesso, se non, adesso non voglio attribuire intenzioni, però come di chi ha imparato a, per così dire, districarsi malgrado la situazione, per così dire. Naturalmente è un po' difficile e complicato pensarlo, non... detto questo, leggiamo sui giornali italiani che poi le fonti ufficiali del governo adesso ci dicono che bisogna trattare anche col generale Haftar. Noi abbiamo preso una strada di aver detto Sarraji, la Francia in teoria è sulla nostra linea, in realtà le forze speciali francesi stanno dall'altra parte e stanno con Haftar, che occupa oramai impianti energetici e porti. Mi pare che Quirico abbia ragione, la confusione è tale che l'unica cosa che capisco, io mi sento di dire, e che le potenze occidentali che nel 2011 hanno fatto tutto quel caos non mi sembra che abbiano tratto le conclusioni e la giusta lezione di quello che hanno fatto. Non so come la pensi Quirico, ma ho un po' questa opinione qua. Prima è un analogo considerazione si può fare anche in altre zone che ahimè sono al centro di questo cataclisma. Il problema non è tanto aver eliminato Tizio Caio, che erano, parlo di Gheddafi piuttosto che di Saddam Hussein, che siano finiti, come dire, una spazzatura della storia, secondo me è una cosa assai positiva. Il problema è non aver assolutamente gestito il dopo, o averlo gestito male. E questo è il guaio. È la colpa. Allora, il problema libico è che, francamente, per quel poco che ne conosco, non è che ci sia, quelli di Tripoli sono meglio di quelli di Bengasi, quelli di Misurata, che ai tempi in cui c'era la guerra contro Gheddafi, tutti consideravano una banda di predoni che hanno saccheggiato Tripoli portando via i frigoriferi e i condizionatori d'aria, portandosi nella loro tana. E questi sono diventati improvvisamente persone simpaticissime, esatto, con cui si trattava qua e là, eccetera. Allora, come dire, c'è veramente il meccanismo che mi sembra un po' inceppato nel suo svolgimento e anche nelle sue premesse. Ecco. In ogni caso, adesso ovviamente vedremo come va la situazione. Il ministro degli esteri Gentiloni, che a New York, appunto per l'Assemblea dell'ONU, dice: seguiamo ogni minuto, come succede in tutte queste vicende, che speriamo vadano in conclusione in maniera positiva. Però ecco, teniamo fermo quello che dice Quirico, dall'altro la sua esperienza, insomma, non veramente ci illumina. Ma perché? Tieni conto, Alessandro, che in questi stessi due giorni l'Italia è quella che esce battendo i pugni dal vertice di Bratislava, ma stando al punto di cui stiamo parlando, dicendo: questi non capiscono con l'immigrazione, bisogna avviare enormi patti multilaterali per lo sviluppo con l'Africa. Giusto. Poi dice: l'Italia farà da sola. E a me purtroppo, io allargo le braccia con amarezza. Cosa vuole fare l'Italia da solo con un terzo quasi dei paesi dell'Africa, se in 155 anni non siamo riusciti a risolvere neanche il gap di sviluppo del sud? Scusami. Cioè, la sproporzione tra quello che l'Italia dice in maniera roboante e poi la realtà, vedi due in Libia e il caos di chi ha scelto Sarraji, dice che bisogna trattare anche con Haftar e così via, a me sembra una distanza siderale. L'idea, ecco, di dire facciamo da soli, appunto, con stati in alcuni casi falliti, diciamo così, in alcuni casi un po' confusi, e in queste situazioni è ovvio che, come dire, l'unione, non, nel senso di Unione Europea e l'unione in genere, farebbe la forza rispetto, certo, a un singolo stato che va, certo, a trattare, e quindi è chiaro che è un po' buttare e sbattere i pugni sul tavolo per dire, sì, per scuotere, se, come se, dire. Se annunci che farai i patti da solo, gli altri ridacchiano e ti invitano a guardare la porta. Vai, vai, vogliamo farci ridere, dai. Senti Oscar, io te lo dico perché tantissimi messaggi sono su questo. Perché un uomo di 68 anni lavora in Libia, chiedetelo alla Fornero. Guarda, ne saranno arrivati almeno 10. Vabbè, te lo registro perché tante persone non sappiamo nulla della vita e delle decisioni di questa persona. Tantissimi ci diranno che è colpa dell'euro, altri direi che è colpa della Merkel. Vabbè, le opinioni sono vediamo, queste sono le idee. Comunque non sappiamo nulla della vita di questa persona, delle sue decisioni, del perché fosse in Libia, del perché avesse deciso questi percorsi. Intanto portiamolo a casa, ecco, e speriamo che torni a casa insieme agli altri due, il canadese e all'altro italiano. E poi tutte queste riflessioni si potranno anche fare magari in un momento secondario. Allora andiamo a New York dopo la pubblicità, nel senso che cerchiamo di capire in America cosa sta succedendo. Va bene, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, in qualche modo abbandoniamo la Libia. Però purtroppo non abbandoniamo storie di terrore, minacce. Esatto. Vogliamo dare anche il numero di telefono, l'abbiamo dato prima, 800 24 00 24 se volete intervenire. Allora, in America, negli Stati Uniti, hanno preso questo afgano americano di origine afghana che sarebbe responsabile di questi ordigni, quell'esploso a New York, quelli inesplosi, forse anche quelli del New Jersey. Si dice forse perché, Oscar, qui bisogna capire se ha agito da solo, se è lui intanto, certo. Come se ha agito da solo, se è un cosiddetto lupo solitario, se è una cellula. Il dato di fatto è che New York ripiomba nel terrore e gli Stati Uniti. Con noi vogliamo salutare Marco Lombardi, che è responsabile del centro di ricerca It's Time, lo citiamo così, giusto, la Cattolica di Milano. Giusto. Buongiorno professor Lombardi. Buongiorno, eccoci. Giusto così. Salutiamo anche il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, l'UCOI, Izzedin Elzir, Imam Elzir, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Buongiorno. Allora Lombardi, ci si chiede intanto anche se questo inciderà e come inciderà sulla campagna elettorale americana. Sta di fatto che, come prima diceva Oscar Giannino, 48 ore l'hanno preso, se è questo in America, no? Risposta rapida, risposta pronta, neutralizzata quella che sarebbe il lupo solitario. Dobbiamo fidarci e va bene tutto così? Beh, va tutto bene. Allora, campagna elettorale, certo. Diciamo che nella storia degli attentati del terrorismo l'irruzione nelle campagne elettorali non è la prima e potrebbe centrare, primo aspetto. L'hanno preso subito, benissimo, e ho apprezzato molto, devo dire, quello che ha detto Obama l'altro giorno, dicendo keep calm, di fatto, lasciateci lavorare, perché prima di fare delle ipotesi dobbiamo lavorare in pace e andare a fondo. E questo è un detto, diciamo così, da utilizzare spesso. Tutto bene così. È tutto da vedersi, perché qui c'è un punto interessante che non ho ancora visto molto sottolineato, che è il New Jersey, questa sorta di subborgo di New York. Perché pochi si sono ricordati che il primo attacco alle Torri Gemelle, quello famoso del 93, febbraio 93, 6 morti, veniva dalla New Jersey. Il circuito girava intorno a Moschea al-Salam, che sta a New Jersey, col famoso sceicco orbo, quello cieco Abdel Rahman, che poi venne preso e con una serie di vicende. Quindi l'altro aspetto interessante che pone dei punti di domanda è questo incubatore del New Jersey prossimo a New York, che lascia tanti punti di domanda a cominciare, ma era davvero solo? Questa è la domanda che credo in America si pongano tutti. Certo, poi Oscar, abbiamo sottovalutato anche quello che è successo in Minnesota, invece, dove questo somalo americano di origine somala, chiedendo, e qui ci risiamo, alle persone musulmano? Sei musulmano? E alle risposta no, ha colpito, ha coltellato. Qui Imam Elzir, la domanda è la solita, è chiaro che lei ci dirà che non è un buon musulmano, immagino, no? Costui che ha fatto questo tipo di azioni, però agiva nella sua follia pensando di portare avanti una sorta di giustizia e distinzione tra chi fosse musulmano e chi no, e quello che non lo era da colpire. Ma purtroppo questi momenti tragici lo sentiamo ogni giorno, che una persona nel nome del suo Dio crede che sta facendo il bene al suo Dio, non dobbiamo abituarci a questi atti, condannare sempre questi atti in maniera molto chiara, non lasciando spazio a questi criminali di usare il nome di Dio in vano, e dobbiamo condannare e non dobbiamo stancarsi mai, ma non dobbiamo vivere nella paura, perché spesso l'obiettivo, anche se gruppo solitario o gruppo organizzato, il loro obiettivo è quello di creare terrore, terrorizzarci, vivere nella paura. E qui vorrei ricordare un poeta palestinese, dice: la paura non impedisce la morte, ma impedisce la vita. E allora noi non dobbiamo vivere nella paura. Certamente, come ho sentito anche prima, l'obiettivo le elezioni americane, perché fra un po' le elezioni americane, allora questi criminali, questi terroristi cercano di cambiare, spostare qua e là per creare questo terrore, questa paura, e noi dobbiamo essere fermi nella condanna, ma non vivere la paura. Non vivere nella paura. E questo è il timore, Oscar, che però l'America ripiombi in questa paura che poi non è mai scomparsa. No, non è mai scomparsa, perché poi nei periodi successivi abbiamo avuto poi attentati di tipo diverso, no? Cioè non ci sono stati più attentati in grande stile come l'11 settembre, però voglio dire la maratona, ti ricordi, Boston, come cose no? Che, cioè è comunque facile colpire. E comunque poi l'Europa si è rivelata più esposta, questo non c'è dubbio, perché evidentemente poi il fenomeno dei fighters di ritorno dalle terre del califfato rispetto alla radicalizzazione delle comunità di origine in Europa, abbiamo visto in Francia e Belgio quanto questo fenomeno è radicalissimo, estesissimo. A me ha colpito molto il premier francese la settimana scorsa, Valls, che nel Parlamento francese ha detto: noi riteniamo che ci siano almeno 15.000 soggetti giovani musulmani radicalizzati di cui abbiamo di che temere, perché il rischio di attentati quotidiani in Francia. Queste erano le parole testuali usate in Parlamento dal premier francese. Ecco, gli Stati Uniti però, malgrado si considerano più sicuri rispetto a quello che è avvenuto in Europa dagli grandi attentati Charlie Hebdo, Bataclan in poi, come si vede il problema c'è, è inutile dire di no. Io tra l'altro reputo, non so se casuale o voluto, l'effetto della campagna elettorale, però certo, comunque uno dei temi della campagna elettorale, uno dei motivi per cui Trump prende voti, non è tanto la politica estera, perché lo sappiamo, pesca voti dalle vittime della crisi, come si direbbe, cioè dal ceto medio che è incazzato con l'establishment, però la politica estera è uno dei punti, perché se ricordi il motivo per cui Hillary non convince molto sono le centinaia di mail levate dal server del Dipartimento di Stato relative proprio alla vicenda dei diplomatici e dei marines, certo, americani morti nell'ambasciata a Tripoli. Però, Zelina Elzir, queste cifre snocciolate anche dal premier Valls ci preoccupano. Ieri è uscita anche una ricerca dell'Istituto Montaigne, secondo alcuni non molto autorevole, in Francia, e dice che il 40% dei quindicenni e 25enni in Francia sono radicalizzati. La preoccupa questo? Musulmani. Sì, musulmani, quando stiamo parlando di musulmani. Sì. E certamente è preoccupante. Noi come comunità islamica italiana, come UCOI, abbiamo collaborato a una ricerca simile in Italia, credo alla fine dell'anno avremo dei risultati, e l'obiettivo per conoscere meglio ancora la nostra comunità, i nostri giovani in particolare. C'è da dire che i nostri giovani sono giovani italiani, giovani europei, giovani francesi, e prima di essere musulmani sono nati, cresciuti qui, frequentano la nostra scuola italiana, la nostra scuola francese, e pochi di loro frequentano le moschee. Noi riflettiamo la nostra società europea realmente. Purtroppo, e devo essere chiaro, quelli che non frequentano le moschee hanno un percentuale di radicalizzazione altissimo. Ah, quindi lei dice è il contrario a quello che pensa magari la gente comune. Più si va in moschea, meno c'è il rischio di radicalizzazione, lei dice. Ma questo è un dato di fatto. Diciamo, la maggior parte di quelli che hanno fatto gli attentati in Europa, parlo della realtà europea perché è quella che lo conosco abbastanza bene, hanno frequentato il carcere, non la moschea. La maggior parte, quasi il 95%. Questo è un dato di fatto, cioè non è che... Che il carcere siano luoghi di radicalizzazione, questo lo ha annunciato e ha detto come allarme anche il ministro della giustizia Orlando varie volte, e che siano luoghi dove, dove le persone magari allo sbando cerchino una sorta di via, qualunque essa sia, in questo caso la via sbagliata, è un rischio, è un rischio notevole. Purtroppo è così, perciò noi abbiamo presentato al Ministero della giustizia, al Dipartimento dei detenuti, un progetto per collaborazione, perché abbiamo visto questa cosa qui, la radicalizzazione dentro il carcere, o persone che diciamo frequentano quest'area, per cercare di dare un nostro contributo. Stiamo lavorando dentro le moschee, ma è giusto andare oltre le moschee, perché quelli che frequentano le moschee non arrivano neanche al 20% della comunità. Sì. Questi giovani, l'80%, ma direi anche quasi il 90%, non le frequenta, non frequenta le moschee. Purtroppo il nichilismo, il vuoto, porta a trovare dei mostri. Professor Lombardi, perché lei pensa che non sia, che non abbia agito da solo questo afgano, o comunque c'è il sospetto che non abbia agito da solo? E ora non lo sappiamo ancora. Il fatto che venga da una sorta di incubatore, è eccessivo parlare di una Molenbeek newyorkese, ma da una sorta di incubatore come il New Jersey, potrebbe far sottendere a una rete più ampia. Anche le operazioni alla fine triple, ricordiamoci che c'è stata anche già un'altra bomba in New Jersey che è esplosa senza fare particolari danni, poi New York e poi appunto quelle ritrovate a New Jersey. Tra l'altro delle bombe, quei sifoli trovati nello zaino, piuttosto ben fatti, fa pensare che potrebbe non essere solo, ma soprattutto si trova all'interno di un circuito, di un environment, di un ambiente che sembra favorevole. Quindi pensare che sia assolutamente solo, bah, sì, si può, però aspettiamo le informazioni. Al contrario, giustamente avete citato il Minnesota, che invece probabilmente agisce da solo e ha agito anche in maniera diversa, quanto lei ha sottolineato del fatto che chiedesse musulmano o non musulmano, era un somalo, è la tipico, il tipico modus operandi degli Shabab, giusto per avere un'idea, sì, che certo, usano questo tipo di attacco. Però ecco, se c'è una cosa da sottolineare, questo, dall'idea della diversità, della reazione dell'America post 11 settembre in tutti questi anni, che ha cambiato alcuni fondamenti del suo diritto interno, su temi molto sensibili, su cui gli americani sono sensibili, come il diritto alla libertà e i poteri attribuiti alle autorità federali e locali, perché proprio nel New Jersey, i metodi usati a tappeto dai controlli, dagli ascolti pervasivi dalla polizia, per tenere sotto controllo questo environment di cui ci parla il nostro ospite Marco Lombardi, addirittura sono stati trascinati di fronte alla Corte di Stato, perché alcuni cittadini, alcune associazioni, anche alcune associazioni islamiche, hanno ritenuto che vadano oltre il Petrotech, cioè siano proprio invasivi. Questo per dire, lì la reazione delle istituzioni c'è e forte. Forte, anche per questo poi si riesce ad acchiappare in un po' di ore i responsabili. Ecco, se pensiamo alle giornate terribili che abbiamo vissuto osservando in Francia, la mosca cieca, certo, a volte in Francia. Vabbè, qui è il dibattito, professor Lombardi, tra quante libertà siamo disposti a concedere in nome della sicurezza nazionale, e quanto invece dobbiamo tenere duro invece sulla difesa delle nostre libertà. È un dibattito aperto che richiede una nuova armonia, direi, ormai questo è un dato di fatto, è una consapevolezza, un riequilibrio tra quelle che sono le libertà e la sicurezza. Questo rimette in campo, e vi attiro l'attenzione sul tema dei giovani che avete sollevato, perché è realmente problematico per quanto riguarda i giovani che possono venire radicalizzati e compiere atti estremistici, perché c'è un grande punto interessante che riguarda l'estremismo islamico, che riguarda Daesh. Daesh è famoso perché è il primo gruppo terrorista ad aver occupato un territorio, ha occupato lo spazio, siamo d'accordo, ma Daesh ha occupato il tempo, e questo è più drammatico. Esatto, quando va a impattare in questo modo sui giovani europei, musulmani, non musulmani, tutto quello che volete, sta occupando il tempo, e occupare il tempo attraverso la penetrazione in una o più generazioni mette un'ipoteca incredibile sul futuro complessivo delle nostre società. Questo è un punto ancora più drammatico. Io non vorrei nel concludere, perché sappiamo che la Francia, dove c'è questo dato spaventoso di molti radicalizzati, ha una lunga tradizione anche di rapporti con i paesi africani, i paesi musulmani, eccetera. Non vorrei che noi, Oscar, ci ritrovassimo tra 10 anni nella situazione attuale della Francia. A oggi, per dirci, non aiuta il tipo di cooperazione né per le indagini né per l'accertamento e i limiti da porre alle predicazioni islamiste, che ci sono state anche in circuiti di moschee italiane, per essere chiari. Cristina Giudice ne scrive da anni. Non aiuta espulsi. Il fatto, per esempio, che le associazioni islamiche in Italia non trovino tra loro una matrice di rappresentanza comune. Questo è un problema molto serio, e perché rispecchia a propria volta l'influenza che le comunità islamiche ci sono di aspetti e proiezioni diversi dell'Islam all'interno dell'Islam, e questo è un problema serio in Italia. Quindi il mio appello, abbiamo con noi Zira Zir, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, questo è un problema che va superato, perché noi sappiamo che nella legislazione italiana non si può fare un'intesa, per esempio, se non c'è una rappresentanza unitaria. Ecco, e questo significa, come si è visto anche nella giornata di apertura tra chiese e Islam, no? Il fatto che la grande moschea abbia detto no mentre altre dicevano sì, è un problema questo, dell'interlocuzione diretta, che rispecchia un problema dell'Islam, questa volta non un problema nostro. Allora, però dobbiamo fermarci qui, nel senso che è il tempo del giornale radio. Ringraziamo Marco Lombardi, ringraziamo Izzedine Elzir, presidente dell'UCOI. Dopo le 9 parleremo di sanità con le liste d'attesa. C'è stata presa diretta che si è molto concentrata su questo. E anche stipendi della pubblica amministrazione. Sai i dirigenti più pagati in che ambito sono, caro Oscar? Sai quali sono? Quelli che ci mettono le mani nelle tasche. Del fisco. Quando l'ho letta questa notizia, ho detto: Oscar sarà felice. Pensa, quelli pagati meno di tutti sono quelli che hanno in mano il capitale umano. I presidi. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Ieri sono arrivati i dati dell'INPS sulla tipologia dei contratti di lavoro, dati che confermano il rallentamento della crescita del lavoro a tempo indeterminato, rallentamento dovuto ovviamente alla riduzione del bonus decontribuzione a favore delle aziende. Ricordiamo che nel 2015 alle imprese era riconosciuto un incentivo di 8.060 euro per 3 anni per ogni assunzione, mentre quest'anno l'aiuto è sceso a 3.250 euro l'anno per 2 anni. Comunque, nei primi 7 mesi del 2016, i dati si riferiscono al solo settore privato e sono esclusi anche i lavoratori domestici e gli agricoli, nuovi contratti stabili a tempo indeterminato sono risultati in calo del 34% rispetto allo stesso periodo del 2015. Fa un po' riflettere il fatto che a questa frenata dell'occupazione stabile si contrapponga un aumento dei contratti a termine e anche un ulteriore incremento dei voucher destinati al pagamento del lavoro accessorio. Tornando ai contratti a tempo indeterminato, se andiamo a vedere il saldo tra le assunzioni stabili e le cessazioni, cioè quelle per licenziamento o anche quelle volontarie, il risultato dei primi 7 mesi del 2016 è ancora positivo per 76.000 unità, ma è in forte calo rispetto al 2015. Su base annua, cioè negli ultimi 12 mesi, il saldo tra le assunzioni stabili e le cessazioni è positivo, e questo è un buon dato, per 488.000 unità. Segno evidente che gli incentivi sono serviti, ma anche un campanello d'allarme ora che gli incentivi vanno ad esaurirsi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci ancora in diretta fino alle 9.30. Eccoci qua. Eccoci qui. Allora, cosa spulciavi? No, sai che io vivo in un mondo parallelo, minoritario. Perché? In cui, perché? Ma, c'è questo mondo scollato di un paese che ha i propri debiti e oggi leggo sui giornali che il tesoro fa scrivere ai giornali che siamo i più virtuosi d'Europa. Oppure, che ne so, un paese che c'ha l'Attac, la Mapezzi e Ferrovie dello Stato che dovrebbe occuparsi delle proprie cose, per così dire, visto che nel trasporto locale è monopolista in Italia e non offre servizi di qualità, a differenza che nei servizi commerciali, dove è un fatto oggettivo, no? Che ha migliorato il suo servizio. E oggi c'è un'amplissima intervista dell'amministratore legato, molto caro a Renzi, Mazzoncini, che dice che si vogliono comprare l'ATAC, l'ANAS, Ferrovie dello Stato, capisci, pianifica poste pubbliche, si vuole comprare Pioneer e così via. Cioè, lo Stato in Italia sta scassato e vuole espandersi invece che tagliarsi e noi diciamo che la colpa è degli altri. Ecco, io mi sento minoritario al punto tale che probabilmente mi ricovereranno, perché è ovvio. Perché c'è un problema. Se la percezione tua dei problemi italiani sui numeri, la realtà che la maggioranza degli italiani oramai non la condivide perché dice che il problema è degli altri, beh, a un certo punto, sai, fare il nostro mestiere diventa difficile. Penso che imboccherò la strada di un autoricovero. Quindi, no, perché è pazzesco. Cioè, Ferrovie dello Stato si vuole comprare ATAC, ANAS, va bene. Allora uno allarga le braccia e dice, benissimo, fate quello che volete. Poi naturalmente però, quando su un tratto del trasporto pubblico pugliese, in quel caso ci sono privati, succede quel che succede nei trasporti regionali, locali, poi per 5 giorni riempiamo i giornali. Dicendo per che 360 Stato... diamo retta ai manager di Stato che raccontano che loro scomprano pezzi dell'economia privata. Abbiamo visto l'ILVA, l'esproprio giudiziario, si è ripreso lo Stato, bene, nei primi 6 mesi di quest'anno, per la prima volta dal 1948, cari ascoltatori, questo che è il secondo paese manifatturiero d'Europa, importa più acciaio di quello che produce. È la prima volta nel 1948 grazie alla statalizzazione giudiziaria dell'ILVA. Però questa roba qua è meglio non dirla, perché bisogna dire che l'ILVA è meglio in mani pubbliche. No, ma infatti sei qui a dirla. No, per carità, allora. Però sempre più in silenzio per non disturbare anche Confindustria. Si dice che non bisogna disturbare lo Stato, i manager di Renzi. A me non interessa che siano di Renzi. Per esempio, molti ascoltatori dicono: Genio è diventato grillino. Io? Ma quando mai? Scusate, lo dicevate quando attaccavo i governi Berlusconi e dicevate che ero del PD. Adesso io critico nel merito, peccato che i governi pro tempore ne diano di occasione di criticare. Il nostro mestiere, Alessandro, è un po' questo, non per pregiudizio, faccio esempi concreti. Adesso mi dicono che sono grillino. Comunque il numero per intervenire è 800 24 00 24. C'è Valerio che ci chiama da Milano. Buongiorno Valerio. Buongiorno a lei, buongiorno. Ecco. Io volevo intervenire solo per il fatto che continuo a sentire che gente, persone di 68 anni, 60 anni lavorano. Io posso portare la mia esperienza personale. Io l'anno prossimo faccio 55 anni di lavoro, ho 70 anni. Complimenti. Ho fatto 3 anni in Libia e 9 anni in Libano e l'anno prossimo ritorno in Libia e riapro in Libano. Quindi questo concetto di... Nonostante quello che legge sui giornali, il paese, ma guardi, un po' lo sbando. Quando io parlavo che ero in Libano, tutti dicevano che avevo paura. Il Libano è una realtà che l'Europa dovrebbe imparare. Ci sono 23 etnie differenti che convivono e tranne qualche eccezione nessuno litiga, nessuno... Oddio, scusi, aspetti, libanese, non è che nessuno litiga, ci sono state guerre civili dei decenni, Beirut sì, distrutta, ricostruita. Ho capito, no, la Siria, i palestinesi, ha ragione, però voglio dire... Però litigano, ecco, sì, coinvolgono, litigano, e coinvolgono lì. Persone terze. Nel Parlamento libanese c'è una scritta, ricordatevi che di qui ve ne dovete andare. E dovrebbero anche mettere la parlamentare. Ha ragione. Però Valerio ha letto anche lei, lo sa anche lei e lo vede anche lei che in Libia ci sono due governi, uno che appoggiamo noi. La Libia non è il Libano, sono due mondi completamente differenti. So, la Libia non è il Libano. E lei il Libano ci torna? È un mondo e la Libia. Sì, io ci torno per questioni di interesse, questioni di affari, anche perché noi andiamo verso Tripoli, che è una regione non è misurata, che è molto più tranquilla e via dicendo. Poi ci torneremo l'anno prossimo, dove certamente le cose saranno messe a posto, che è solamente una questione di interessi. Lei confida che l'anno prossimo sia un po' meglio di adesso. Però possiamo io penso che, dica, farle un appello. io non discuto la forza degli imprenditori e dei collaboratori degli imprenditori, perché c'è anche chi lavora poi non sono imprenditori, certo. In questi paesi è una delle grandi virtù italiane, però per favore rispettate tutte le procedure di sicurezza, cioè nel senso che le scorte armate, queste cose, perché poi io capisco che spesso sono proprio quelli, ci dicono le vicende alle spalle, che vendono alle bande di predoni gli ostaggi italiani e degli altri paesi. Però ecco, almeno questo, non credo di doverlo dire a lei, se ha tutta questa esperienza, sa che ci sono delle particolari condizioni in cui le procedure di sicurezza non bastano mai. Sì, ma a parte i delinquenti comuni che portano via la gente come facevano in Italia i sardi per i soldi, a parte quello, se lei ha un rapporto di vita quotidiano e porta lavoro, viene rispettato, amato e soprattutto valutato, cosa che in Italia non è, chi porta lavoro sì, difficilmente. Però Valerio, sa anche lei, se ci sono dei governi, e il governo italiano pare proprio uno di quelli che poi pagano in caso di rapimenti, uno può essere anche rispettato, ma se è come dire un bottino su due gambe che cammina... Sa anche ma è una questione di delinquenza, non è una questione di persone e di politica. Però c'è. Comunque Valerio, anche qui la delinquenza, perché mi pare che hanno portato via tante persone in Italia, in Sardegna, eccetera. Abbiamo avuto una storia, giusto? Sì, certo. Non la paragonerei alla Libia attuale, mi sembra un pochino più incerta come situazione. Comunque, però lungi Valerio, da noi mancare di rispetto a chi ha 75 anni e lavora. Pensate Caprotti, che con gli anni che ha è ancora lì, che con però S. adesso Lunga. Vuole vendere Vesse Lunga, ma non si vedremo, sa. Non si capisce. Vabbè. L'essenziale è che non la vuole dare ai figli, quello si è capito. Questo si è capito abbastanza chiaramente. Se Caprotti vorrà mai venire qui a Radio 24, sarebbe troppo ospite, bello sarebbe. Siamo con i microfoni aperti. Francesco dalla provincia di Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo portare un po' la discussione e tornare sul problema del terrorismo internazionale perpetrato dai musulmani. Ogni volta che succede qualcosa c'è sempre un imam che in maniera subdola dice sempre che il terrorismo non c'entra niente con la religione. Allora, se questo è vero, perché non organizzano una bella e grande manifestazione alla Mecca dove si riuniscono tutti i musulmani e dicono no al terrorismo? Mm-hmm. Questa è la mia domanda. Imam, perché ogni volta non... Ma è una volta che autonomamente organizzano qualcosa contro il terrorismo, devono essere sempre invogliati e chiamati da qualcun altro. Si figuri, lei dice fare una grande cosa alla Mecca, già questo significherebbe che un terzo del mondo islamico non parteciperebbe. Cioè, per esempio, due settimane fa si è tenuto un grande meeting internazionale islamico, si è tenuto in Turchia, ospite della Turchia, e il problema è che l'Arabia Saudita non ha partecipato, per dire, ed erano imam, non era una cosa politica. Gli sciiti il pellegrinaggio se lo fanno più probabilmente e in maggior numero a Karbala, la città sciita dell'Iraq, oramai, di quanto non vadano alla Mecca. Cioè, voglio dire, il Medio Oriente è in fiamme perché c'è un problema di egemonia tra stati e correnti islamiche in corso, tra gli sciiti, i sunniti, le diverse frange dei sunniti. L'ex fratellanza musulmana era di un tipo in Egitto, poi rispodestata dal Sisi. La Turchia con Erdogan è una chiave nazionale di Islam sunnita di Stato, è molto complicata la faccenda. Certo. Allora, però, abbandoniamo un po' questi temi, tuffiamoci anche nella cronaca dell'attualità italiana. Ieri è andata in onda Presa Diretta su Rai 3, come tutti i lunedì. Con noi c'è Alessandro Macina, uno degli autori di Presa Diretta, uno dei giornalisti che lavora. Buongiorno Alessandro, buongiorno, benvenuto. A voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per raccontare che cosa, questa disastrata, si può dire disastrata sanità italiana, non siamo troppo impietosi, perché poi la sanità italiana non è le parti elevate della graduatoria internazionale di comparazione della qualità dei servizi offerti, ma diciamolo, questo non ci esime dal dire che ci sono tante cose che non vanno. Esatto. Ecco. Per esempio, cosa c'è che non va sulle liste d'attesa, Alessandro? Beh, guardate, quello delle liste d'attesa che abbiamo raccontato di ieri sera è forse uno dei problemi più dolorosi della sanità italiana. Diciamo una cosa, tra l'altro, che i cittadini verificano quotidianamente, no? Anche proprio di persona, ed è doloroso perché ha a che fare con la possibilità di curarsi innanzitutto, e a che fare anche, diciamo, con il senso stesso della prevenzione, che anche economicamente, diciamo, in sanità è un concetto rilevante, perché è chiaro che quando bisogna aspettare un anno per una TAC o una mammografia, 8 mesi per una visita dal cardiologo, appunto la prevenzione poi ecco non c'è, quello è chiaro. Volevo portarvi un dato a questo proposito che secondo me fotografa bene la situazione: 34,5 miliardi di euro all'anno, a tanto è arrivata la spesa privata in sanità, dove per privata si intende la spesa proprio del privato cittadino, cioè di tasca propria per la sanità. Vuol dire qualcosa come 500 euro a testa che ognuno di noi paga per ticket, prestazioni private, certo, o anche visite eventualmente in intramenia. No, ma poi si è detto tante volte che poi la sanità privata va benissimo, ma l'idea qua, il problema è nasce quando uno chiama e come hai detto tu si ritrova a delle liste d'attesa per disorganizzazione, e naturalmente ritardi, basta pagare 8 mesi invece. E basta pagare, il giorno dopo uno fa l'esame che vuole. Esatto, guardate, il punto è proprio questo, cioè il concetto se paghi la visita è domani, è qualcosa che chiaramente poi va in esattamente il contrario anche di quello che è il dettato comunque costituzionale ed il senso profondo anche del nostro sistema sanitario pubblico, che ci è comunque invidiato in tutto il mondo proprio per il suo principio universalistico, cioè di uguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alla cura. Mentre se invece il discorso diventa che chi ha più soldi, più possibilità, chi ha un'assicurazione magari come quella che oggi come oggi tante aziende fanno i propri dipendenti, ecco, chi ha queste possibilità sicura prima, sicura meglio, è un grande problema, no, che è una distorsione del sistema che comunque va denunciata, insomma, in modo da comunque metterci anche un freno. Oscar, sai che il Censis dice che ci sono 11 milioni di italiani che per questo rinunciano a curarsi, perché non hanno mica i soldi per andare il giorno dopo a pagarsi di tasca propria un esame, no? E no, poi ci sono particolari cure, per esempio quella dei denti e così via, sono particolari pezzi della cura che gli italiani hanno verso loro stessi, controlli di prevenzione prima ancora che interventi per affrontare patologie, che in questi anni di perdita del reddito pro capite, secondo tutto quello che sappiamo dalle indagini sociali e dei numeri anche dei contabilità nazionale, che gli italiani hanno dovuto diminuire. Purtroppo è un problema correlato alla piramide dei redditi, ovviamente chi ha perso più redditi ha diminuito di più, e questo fatto è verissimo. La domanda da fare è quando testate e giornalisti secondo me di valore come quelle che realizzano questi servizi e di Alessandro che è con noi, è questa: la politica di fronte a questo fatto, cioè l'evidente fenomeno che in parte d'Italia molto rilevanti c'è della discrasia dei tempi tra le strutture pubbliche e l'offerta privata, magari con gli stessi medici però che sono a cavallo tra pubblico e privato, questo è il punto, perché all'interno degli stessi ospedali ti dicono vuoi questo o vuoi quello. Allora la domanda diventa: c'è qualcosa da correggere nell'organizzazione pubblica dell'offerta sanitaria, della diagnostica e dei servizi? Ecco, questo è il punto secondo me su cui bisognerebbe riflettere. Alessandro, che dici? Beh sì, senz'altro, questo diciamo infatti è proprio forse uno dei primi livelli sui quali bisognerebbe agire, cioè i problemi sono tantissime volte innanzitutto organizzativi e innanzitutto anche di efficienza del sistema, perché sappiamo insomma ci sono anche tantissimi macchinari rotti, guasti, oppure che non funzionano appieno, che diciamo che possono lavorare soltanto mezza giornata per vari problemi, compreso anche quello diciamo del personale, perché sappiamo che comunque anche i tagli alle regioni con i piani di rientro diciamo hanno bloccato il turnover, quindi il ricambio del personale per tanti anni, e in generale serve proprio onestamente più controllo da parte delle regioni sulle aziende sanitarie e più controllo anche diciamo a un livello centrale poi sull'operato delle regioni, perché non basta diciamo ottemperare gli obblighi di legge mettendo poi sul proprio sito internet quelli che sono i tempi di attesa, no? Nelle singole regioni, quando poi appunto il tempo di attesa magari in Calabria è 600 giorni 600 per una prestazione. Sì, perché poi qui possiamo dividere nord-sud, più vai al nord più trovi efficienza. Da questo punto di vista l'hai riscontrato, Alessandro? Beh sì, ieri sera abbiamo fatto l'esempio della regione Emilia-Romagna, una regione che spesso no, in sanità insomma viene presa come esempio virtuoso, e anche sulle liste d'attesa in effetti è un po' un'eccezione, perché il 98% delle prestazioni delle 50 prestazioni monitorate comunque rispettano i tempi medi di attesa, e questo è stato possibile anche grazie a un piano della regione proprio dedicato alla riduzione delle liste d'attesa, che ha previsto anche un investimento di 10 milioni in personale, 150 nuovi infermieri, sì, medici e tecnici, che sono andati a potenziare quelle che erano le aree più critiche e sono andati a garantire servizi 7 giorni su 7, insomma. Ma è chiaro, qui, questo è l'intervento della politica, anche perché la cosa proprio più fastidiosa, come dici tu Oscar, e che i nostri ascoltatori colgono, è quando uno chiama in una struttura e a livello pubblico bisogna attendere magari 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, però se vuole privatamente intramenia il dottore, lo stesso medico, lo stesso identico medico glielo fa domani, dopodomani, basta pagare. Questa è un po' la cosa che fa più imbestialire i cittadini, italiani. Noi ringraziamo Alessandro Macina, grazie davvero, presa diretta, ricordiamo Rai 3, il lunedì sera, il programma di Riccardo Iacona. Quello che volevo dire io non sono contro il privato, sì, però effettivamente c'è qualcosa che non funziona. Se ti ricordi, quando era ministro, stato ministro della sanità, l'attuale presidente dell'antimafia, te lo ricordi? Sì, sì, questo è un punto sul quale all'interno della stessa sinistra, il suo stesso partito, scoppiò una bomba atomica. Cioè, come si regola l'intramenia? Ecco, questo è un punto. Si regola intanto che, lo so per certo perché conosco un caro amico dirigente apicale in un importante ospedale, che i medici dovrebbero dedicare tot ore, ore al mese. Però, diciamo, e non sempre lo fanno al sistema pubblico, e tot ore al sistema. Questo è un punto secondo me dolente, che è rimasto dolente all'interno dell'organizzazione dell'offerta di servizi pubblica. Questo è il popolo a fare. Bisogna interrogarsi profondamente su questo. Io non credo, lo dico per un po' di cognizione dei numeri sanitari italiani, che il problema sia dobbiamo assumere personale, perché pentiamola lì, c'è un problema di inefficienza generale nella macchina pubblica italiana. Rispetto degli La questione orari, è i criteri con cui si utilizzano, e anche il rispetto persone, degli orari, rispetto per degli dirla orari. Proprio. Però caro Oscar, quando ho letto questa notizia ieri dell'Aran, cioè degli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione, ti ho molto pensato, ho chiamato subito, ho detto voglio sentirti. Ma mi hai dato un po' di ragione anche, no? Sì, certo, ma voglio sentirti su questo. Sapete quali sono, in quale settore ci sono i dirigenti pubblici più pagati in Italia? Nel settore, dai, dillo tu Oscar, dell'agenzia, settore dell'Agenzia delle Entrate, del fisco, di quanto prendono, dillo. Non lo so, mi sono fermato al sono i più pagati. Prendono in media, quindi non stiamo parlando di più pagati, in media, poverini, 220.000 euro. Stiamo parlando in media, dei dirigenti, stiamo dei parlando dirigenti. Dei dirigenti, però in media 220.000 euro. Va bene, in e invece i dirigenti meno pagati, qui abbiamo Giorgio Rembado, prendono, ma no, ma la questione non è che meno pagati però prendono qualche no, meno pagati significa che prendono enormemente di meno. Enormemente. Quanto prendono i presidi, giusto per capire, i dirigenti scolastici? Rembado, buongiorno, quanto prende in media? Buongiorno, ora lei mi vuole far arrossire tutti i costi di fronte al paese. No, perché arrossire? Cedo alla violenza, ma con rossore ovviamente. Dica. Perché la media è di 55.000 euro all'anno. Capisci? Quindi un quarto, esattamente un quarto della cifra che lei prima ha indicato per i dirigenti delle agenzie. Vuol dire che la scuola vale un quarto. Vale un quarto, nelle priorità della macchina pubblica, il capitale umano, anzi, chi deve prendersi poi la responsabilità, virgola, che sono state accresciute anche tra molte polemiche con la riforma della buona scuola. Detto tutto questo, vale un quarto. No, ma questo è il grave problema, che la scuola varrebbe 100 volte rispetto a altri settori, come la sanità, eccetera. E però, Rembado, questi sono i conti della serva, no? No, i conti della belva. Sono i conti del Parlamento e del Governo, veramente. E senza offesa per nessuno, e meno che meno per le istituzioni che noi onoriamo. Però è vero che, non, che al di là delle chiacchiere da salotto non si va assolutamente, non ci si smuove da questo tipo di rapporto che è insultante, creda, insultante. Però non ne faccia solo una rivendicazione puramente economica, che è importante. No, ma ci dica perché lo trova insultante questo. Ma guardi, prima di tutto perché mi faccia dire, i dirigenti scolastici ormai hanno delle responsabilità e dei compiti enormemente superiori, non a loro medesimi nel confronto col passato, ma nel confronto col presente, superiori a quelli della stragrande maggioranza dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, perché hanno sono evidentemente i rappresentanti legali dell'istituzione che è data a loro, che è a loro affidata, con conferimento di incarico dirigenziale, perché hanno ormai una marea di compiti e comunque un'azienda tra virgolette da gestire, che ha a che fare con 1.000-1.500 studenti, con altrettante famiglie, con 200 docenti, e pensi che per arrivare ad avere un rapporto di un dirigente a 200 laureati nel nostro paese non so dove si debba andare ad arrivare, non certo all'Agenzia delle Entrate. Questa Agenzia delle Entrate, guardi, la trovo molto accomunata al nostro Oscar, che quando ha letto questi stipendi. Ma io purtroppo, anzi, io posso dire, pagheranno le tasse però su quei 240.000 euro. Ma non la questione non è quella, guardi, non è quella, la questione è che c'è all'interno del mondo pubblico, ci sono criteri completamente figli di un'anarchia inerziale di autotutela, che lo Stato ha premiato di chi si è autotutelato meglio e ha non premiato per niente chi invece vale di più. Quello che io discuto è la radicalità dei criteri difformi da quelli di una qualunque idea di merito o di costo-beneficio, non solo di merito individuale. Chi volesse approfondire e incazzarsi come una belva, legga il libro che è appena uscito il professor Roberto Perotti, Status Quo, perché è così difficile cambiare le cose in Italia, e con qualche consiglio per cominciare a fare. Su questa questione dei dirigenti, cari ascoltatori, c'è moltissimo da arrabbiarsi. Pensate che noi abbiamo solo di dirigenti ministeriali centrali, e ne abbiamo 3.349, esclusi quelli della sanità ASL che sono locali, noi continuiamo ad avere il 50% dei dirigenti ministeriali più della Gran Bretagna, pagati il 20% in più. Quelli regionali, perché ci deve essere il capo dei servizi elettorali della regione Campania che guadagna 211.000 euro e così via? Ci sono elencati centinaia e centinaia di casi. Perché gli 890 ambasciatori devono essere i più pagati del mondo e dal 2015 addirittura ci hanno impedito di capire come si costruisce la loro retribuzione? Viva i poveri dirigenti della scuola di fronte a queste asimmetrie. Certo. Comunque ci dobbiamo fermare qui con Peter Bescapè, regia, e Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. A domani, caro Oscar. A domani, cari presi, un abbraccio.